already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. This rowdy, rollicking, roller skating musical is packed with popular songs by ELO and John Farrar, as well as those legendary ones from the original film. From the place where dreams come true, the cast of Xanadu sings a medley of their inspired songs. One, two, three, four. Everybody all around the world, gotta tell you what I just heard. There's gonna be a party all over the world. Oh. It's gonna be a party all over the world, dice questo signore del cast di Xanadu, una delle più vecchie consunte anche commedie musicali americane, ma che torna in voga. Riascoltiamo un attimo, via. The World, la festa del ringraziamento si prepara a esplodere in America per sollevare un po' gli spiriti di un paese che arriva a questo giorno di festa, si è certamente affaticato, certamente provato, se è vero che al di là delle notizie di cronaca a cui poi oggi dedicheremo buona parte della trasmissione, se è vero che ci sono lunghe file laddove si possono ottenere cibi a prezzi altamente scontati o addirittura gratuiti, che ci sono camioncini che girano per la città, per le grandi città americane, trasportando tacchini, no? Tacchini del ringraziamento, una delle assolute cerimonie, degli assoluti rituali a cui l'America non intende rinunciare, ma che in questa occasione è legata più che altro ad attività benefiche, a donazioni, perché insomma questa è la festa in cui ci si riunisce, si ricorda la famiglia, si parla di amore, si parla di povertà, si parla tanto di bambini, si parla soprattutto tantissimo di cibo. A lungo è stato anche il simbolo dell'opulenza americana, no? Un'opulenza americana che arriva certamente un po' ammaccata con i suoi enormi, giganteschi, inaccettabili tacchini di questa festa del ringraziamento, che poi a tutti gli effetti precede quella che ha l'aria di essere una lunga stagione di ripensamento e forse anche una lunga stagione, come ha promesso qualcuno, di cambiamento. Il signore che ha promesso cambiamenti, restiamo ancora sui toni un po' leggeri, insomma, perché la cosa è notevole. Si chiama Barack Obama, è il presidente eletto, fra una 50 giorni e qualcosa salirà al Campidoglio per prendere possesso della presidenza degli Stati Uniti d'America che l'elettorato gli ha conferito, ma ha fatto una intervista veramente molto divertente con Barbara Walters, ve ne avevamo parlato, l'avevamo preannunciata ieri su ABC, l'abbiamo vista al di là, insomma, delle parti più formali, delle parti più anche legate a cose già sentite, già dette, a promesse, prospettive, progetti su cui Obama tanto spesso si è recentemente espresso. C'è stata anche una parte così più light, più leggera, più divertente della intervista, che personalmente abbiamo prediletto, Barack Obama insieme a la consorte Michelle e Barbara Walters. A un certo punto hanno messo in piedi un vero e proprio teatrino sul tema più usurato e, se permettete, più noioso, no, della neopresidenza, come se un amico ti invita a vedere quei 50 caricatori di diapositive del suo viaggio in Egitto. Ecco, a lui deve fare lo stesso effetto quando gli pongono il problema del cane. I have one final very important question. Questa è Barbara Walters, che fa finta di essere molto concentrata. C'è una domanda molto seria per lei. Lei conosce Chacha? Chacha chiede un Obama assai perplesso. Sì, Chacha, dice, il mio bichon avané, che è un cane, che dice, è un piccolo dolcissimo terrier, il mio terrier. Appare una foto di Chacha con degli occhiali, una cosa, una vergogna. Ah, deve essere uno di quei cani che abbaiano sempre, dice un Obama finalmente un po' teppista. Non criticarlo, dice Michelle, interviene. Sounds kind of like a girly dog. Sì, sì, dice, deve essere uno di quelli che ti si siedono in grembo e fanno quelle cose tipo strusciarci, insiste un Obama molto in palla. Ma no, è un cane così carino, dice Michelle. Obama dice, secondo me è un cane da femminucce. Le femminucce, caro Ciccio Obama, gli dice Michelle, siamo noi, la tua famiglia, siamo tre, tu sei solo, devi anche governare gli Stati Uniti d'America e un pezzo del mondo. Il cane col cavolo che te lo facciamo scegliere a te, ma lui che è presidente degli Stati Uniti d'America, nonché capofamiglia, fa l'aria arcigna e dice, prenderemo un grosso cagnone irrequieto. E poi si rivolge ancora a Barbara Walters e le dice, ma veramente ci stanno dando più consigli sui cani che su come risolvere la crisi economica, non c'è dubbio. E questo per stare sui toni leggeri, che poi vanno lasciati, perché le cronache le conoscete tutti. Quello che sta succedendo a Mumbai è praticamente in diretta col mondo. Il mondo sta osservando quei fuochi, sta ricevendo minuto per minuto gli aggiornamenti delle varie location dove questo attacco ha avuto luogo. Il presidente eletto Obama ha espresso la sua dura condanna naturalmente contro gli attentati a Mumbai. In una dichiarazione diffusa da uno dei suoi portavoce, Obama ha definito gli attacchi una seria urgente conferma della minaccia del terrorismo. Ha ribadito la volontà di collaborare con l'India e con la comunità internazionale per sradicare e distruggere le reti del terrorismo. Inoltre ha inviato i suoi pensieri e le sue preghiere alle vittime, ai familiari degli attentati, parecchi sono peraltro americani. Sosteniamo la causa dei cittadini indiani, la cui democrazia dimostrerà di essere molto più tenace dell'odio che ha condotto a questi attacchi, ha detto ancora il portavoce di Obama, per la precisione Brooke Anderson. E più tardi alla mezza chiacchiereremo con un esperto attorno a ciò che ieri qui a Jefferson vi avevamo anticipato, ovvero l'apparire, no, sulle televisioni americane, sui mezzi di informazione americane, di queste minacce rivolte da Al-Qaeda nei confronti della città di New York. In particolare si parlava di pericolo nella metropolitana, naturalmente la memoria è andata subito a Madrid e Londra, dove il pericolo si è trasformato in tragedia. Il giorno dopo, poche ore dopo in realtà, in India succede quello che è successo, e allora vogliamo provare a capire quali connessioni ci possono essere tra i due eventi, e naturalmente quale ruolo gioca in tutto ciò il fatto che negli Stati Uniti sta per prendere possesso della Casa Bianca una nuova presidenza. E quanto bisogno di titoli di prima pagina ci sia in queste operazioni, e quanto queste operazioni abbiano una natura locale e quanto una natura internazionale. Nel frattempo, New York Times, che nel suo sito per adesso pubblica un articolo in cui smentisce, secondo i suoi analisti e i suoi osservatori, la matrice Al-Qaeda degli attentati, degli attacchi a Mumbai, sostiene che non c'è nulla di riconoscibile dello stile, diciamo così, di Al-Qaeda in quanto sta accadendo oggi nella città indiana. Sullo stesso New York Times comunque compare invece un altro articolo legato alla edificazione della nuova amministrazione a cui Barack Obama sta lavorando con il suo team di transizione in questi giorni, ed è un articolo tutt'altro che tenero. In un editoriale, New York Times chiede a Timothy Geithner e a Lawrence Summers, il ministro del Tesoro e il capo del Consiglio Economico Nazionale nelle prospettive di Obama, di riconoscere gli errori passati. Scrive il giornale di New York, non chiediamo mea culpa morali, sia Geithner che Summers sono uomini di talento, dobbiamo però sapere se hanno imparato dai loro errori e se sì che cosa hanno imparato. Secondo il Times, a meno che Geithner Summers non riconoscano i propri errori, c'è poca speranza che possano offrire il giudizio e la leadership di cui il paese ha bisogno per uscire da questo disastro. E viene da dire, caspita, insomma, non è certo un giudizio tenero all'indomani, insomma, di un sostegno aperto che il quotidiano ha offerto alla candidatura di Barack Obama al momento in cui arrivano i nomi della squadra. Come dire, il credito sembra già essersi esaurito. Quanto a Gettner, la Fed di New York è stata l'alfiere dei salvataggi in serie degli ultimi mesi. Il suo coinvolgimento, ricorda il Times, include l'inspiegabile, virgolettato, voltafaccia di settembre, quando una nuova politica anti-bailout ha permesso il crollo di Lehman Brothers, per venir seguito a ruota meno di due giorni dopo dall'ancor più costoso bailout invece di AIG e lo scorso weekend di Citigroup. Insomma, si mette in dubbio anche l'equilibrio delle scelte. Non c'è dubbio che Gettner sia un wonder boy, no? un ragazzo prodigio, scrive Andrew Ross Sorkin, columnist del New York Times che si occupa di Wall Street, ma il suo ruolo nei maldestri tentativi degli ultimi mesi a sostegno del sistema finanziario legittimano i dubbi che sia all'altezza delle sfide. Detto questo, visto quindi già i problemi e le polemiche insorgenti sulle questioni formazione della transizione, visto che il mondo potrebbe, ne parleremo tra un po', aver cominciato a bruciare anche per dare un degno benvenuto, naturalmente tra molte virgolette, al nuovo presidente degli Stati Uniti da parte nostra, cos'altro se non formulargli, insomma, prima di, no, di montare sul carrozzone che durerà perlomeno 4 anni, di augurargli un sereno giorno del ringraziamento. Un giorno di ringraziamento particolare, lo si capisce anche dai siti americani, insomma, se si va a vedere il New York Times, se si gira su CNN o su Fox, le notizie sono in questo momento tutte rivolte alla situazione in continuo divenire a Mumbai, nonché alle polemiche che si stanno arroventando attorno alla formazione della squadra politica per la prossima amministrazione. Ma andiamo con ordine. Prima pagina. Allora, prima pagina cinese che si ricollega inevitabilmente a quello che sta accadendo in India, a Mumbai, la vecchia Bombay, gli attentati che per ora hanno un bilancio provvisorio ma già drammatico di oltre 100 morti, purtroppo c'è anche un italiano morto negli attentati terroristici di matrice islamica. C'è un messaggio di cordoglio da parte del governo di Pechino, una nota sintetica ma molto chiara che dice: condanniamo fermamente la serie di attacchi a Mumbai, noi ci opponiamo a ogni forma di attacco terroristico, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri pechinese, e ha espresso la sua preoccupazione da un lato e le condoglianze per le vittime. Come dicevo prima, c'è una analisi particolareggiata, interessante, soprattutto diversa da quello che stiamo leggendo sulle fonti di informazione italiana e anche europea. Per esempio c'è un articolo approfondito del London Times, del Time di Londra, che senza molti dubbi attribuisce, anzi sostiene, che l'intelligence inglese attribuisce ad Al-Qaeda l'attacco in India, che c'erano precisi segnali della volontà dell'organizzazione terrorista, che continua a essere riferita alla volontà di Osama Bin Laden, di grab the headlines, questo è il modo di dire, di mettere le mani sulle prime pagine, ecco, diciamo così, dei giornali negli stessi giorni in cui il passaggio di consegne tra Obama e Bush sta andando in scena alla Casa Bianca. Come dire, ci sono loro passano, noi non passiamo, siamo ancora qui a combattere la nostra battaglia. Invece il New York Times la pensa assai diversamente. Nell'articolo di analisi firmato da Mark McDonald e Alan Cowell parla di una organizzazione che si definisce Deccan Mujahideen, che avrebbe firmato, rivendicato gli attacchi multipli di Mumbai, come una sigla del tutto sconosciuta, probabilmente addirittura una sigla d'occasione, un gruppo non esistente, un front name, una etichetta creata ad hoc, ma che tutte le possibili identità di strategia e di comportamento rivolte verso l'esempio di Al-Qaeda non troverebbero conferme, non collimerebbero. Mentre a sud la Cina guarda con preoccupazione a quello che succede in India, sulla frontiera settentrionale il governo di Pechino ha deciso di aumentare in modo massiccio il numero delle truppe al confine con la Corea del Nord. In tre mesi ci sono stati grossi movimenti dei soldati cinesi che sono arrivati adesso, pare, secondo quanto riferisce la Associated Press, citando fonti dei servizi segreti cinesi, pare siano arrivati a 100.000 soldati, quindi un numero davvero imponente. Tutte queste misure di sicurezza, secondo il governo di Pechino, sono rese necessarie dalla possibilità di disordini di fronte alle incerte condizioni di salute del caro leader, ovvero del dittatore nordcoreano Kim Jong II, 66 anni, di cui non si hanno di fatto notizie certe da quest'estate, perché secondo quello che dissero ad agosto Corea del Sud e Stati Uniti, Kim venne colpito da un grave ictus. Poi questo fu smentito da Pyongyang, dalla capitale nordcoreana, che nel frattempo pochi giorni fa ha diffuso delle foto invece di Kim impegnato in una visita a fabbriche per la produzione di macchinari e saponi. Però si sa, Stefano, che in questi casi è difficile poi credere o meno, certo, alla attendibilità di queste foto. Invece ci sono appunto fonti americane e sudcoreane che continuano a dire che il dittatore sta male, è stato colpito da nuovi problemi di salute ad ottobre, e addirittura appunto la TV giapponese TBS parla di un attacco cerebrale ad ottobre, quindi di fatto potrebbe essere imminente la morte del dittatore, e questo creare disordini in Corea del Nord, e questo sta preoccupando molto Pechino. E vi do il, appena rinfrescato le sue pagine CNN, vi do lo stato delle cose appena rimesso sulla home page del principale ormai punto informativo globale. Il titolo principale è la crisi degli ostaggi nell'hotel di Mumbai, il Taj Mahal, non è finita. Dopo 20 ore dall'attacco iniziale le autorità stanno ancora combattendo all'interno dei due grandi alberghi di lusso a Mumbai. Ci sono rapporti di raffiche di arma da fuoco e di esplosioni in entrambi gli hotel negli ultimi minuti. Le autorità britanniche hanno detto a CNN che almeno 3 o 4 terroristi stanno tenendo ostaggi sia al Taj Mahal che all'Oberoi, due alberghi a Mumbai. E il comandante delle forze locali sostiene che ci sono americani e inglesi, in particolare impiegati di banca, tra gli ostaggi, e la cifra delle vittime per ora è ferma a 125. vi confermo quanto il GR, ma insomma per ciò che abbiamo seguito lo scenario vogliamo ribadirlo anche da qui da Jefferson, quanto il GR ha già annunciato, ovvero con una maggioranza di 144 voti su 198 il Parlamento di Baghdad ha ratificato il patto strategico con Washington che prevede il ritiro delle truppe americane dal paese entro la fine del 2011. Nel piano di Barack Obama questa data dovrebbe essere addirittura anticipata. Prima del voto sull'accordo presentato dal governo, i deputati hanno approvato con 149 su 198 voti il documento per le riforme politiche raggiunto tra il governo e l'opposizione, sottoposto a un referendum entro il 31 luglio 2009. Queste sono buone notizie, se non altro. Speriamo. Va bene. Monitorando sia sulle televisioni americane che sui siti informativi le ultime notizie della situazione in evoluzione a Mumbai, ma c'è appunto questa connessione di cui vorremmo adesso parlare, no? Con il brivido che lungo le schiene di tutta America, ma in particolare dei newyorkesi, è corso ieri quando è saltato fuori un allarme, un alert che riguardava la stagione delle feste, sia il weekend lungo del ringraziamento che gli americani stanno imboccando adesso, sia naturalmente le feste natalizie. L'FBI avrebbe messo la polizia di New York in allerta dopo una segnalazione che viene definita con una etichetta così piuttosto controversa, plausibile ma non dimostrata, ecco, la segnalazione è plausibile ma non dimostrata, di un attentato comunque di Al-Qaeda in preparazione contro la rete della metropolitana di New York. Abbiamo anche ieri telefonato ad alcuni amici a New York, giornalisti a New York, per capire poi meglio l'aria che tira, perché sugli organi di stampa italiani naturalmente la cosa è stata ripresa con molta attenzione e anche con nervosismo, un allarme, insomma, memore di fatti andati in scena in anni recenti che hanno segnato, come dire, nel profondo sia le coscienze sia l'informazione internazionale. Questi amici hanno minimizzato, hanno detto sì, quando succede una cosa di questo genere, e succede una cosa di questo genere con tempi ciclici, la cosa che va in scena è un aumento dell'allarme e anche una notizia pubblica dell'allarme in questione, ma non bisogna preoccuparsi più di tanto, anche se un memorandum di avvertimento, ci hanno fatto sapere, è stato distribuito ieri a tutti i commissariati della città e alle stazioni della polizia dello Stato di New York, innalzando in questo modo ufficialmente le misure di sicurezza. L'FBI ha anche annunciato di aver ricevuto da una fonte già utilizzata in passato e ritenuta affidabile la segnalazione che a fine settembre militanti di un gruppo ispirato ad Al-Qaeda avrebbero discusso lo scenario di un attacco alla Subway, alla metropolitana di New York, e altri sistemi di trasporto su rotaia a New York e attorno a New York. E poi oggi è successo, nelle ultime ore, nelle ultime 20 ore in realtà, è successo quello che sapete, sta ancora andando in scena, quello che sapete a Mumbai. Ma di tutto questo, ora che ci siamo messi in collegamento, possiamo parlare con chi ne sa più di noi, nella fattispecie Andrea Nativi, il direttore di RID, la rivista italiana di difesa, e di RISC, una rivista di geostrategia. Qui diamo prima di tutto il benvenuto, il buon pomeriggio, Nativi. Buon pomeriggio a voi. Allora, un paio di domande. Ieri, così facendo cronaca, abbiamo intercettato, raccolto e ribattuto questo allarme sullo scenario di New York e della metropolitana di New York, di cui abbiamo appena fatto cenno ora. Poco dopo succede quello che sta tuttora succedendo in India. Ci dia subito il segno di una eventuale possibile connessione o di una clamorosa coincidenza tra questi due eventi. No, direi che fortunatamente la connessione non c'è, non è comunque così immediata, perché altrimenti ci sarebbe veramente da spaventarsi. Ma non è così. È solo un caso, quindi? È solo un caso, purtroppo è un caso che ci conferma come quello del terrorismo sia un problema globale che non riguarda necessariamente solo il mondo occidentale, anzi direi che in Asia è uno dei problemi emergenti e crescenti, soprattutto in India. E per quanto riguarda New York, devo dire che non è niente di speciale pur nella sua gravità, nel senso che segnalazioni di questo tipo tipicamente sono generate dal chatter, che in gergo vuol dire quello che i servizi riescono a cogliere nelle comunicazioni dei vari gruppi che tengono sotto controllo, e che quando è suffragato da altri elementi intelligence giustifica un allarme più diffuso. Però non è il primo caso. Infatti Nativi, parlavamo di questa segnalazione la cui etichetta ufficiale, insomma tradotta alla meglio, è plausibile ma non dimostrata, così viene definita la segnalazione. Ecco, sì, direi che è proprio il classico gergo degli addetti ai lavori, plausibile ma non dimostrata, infatti, ma se ci fosse, ecco, quello che posso dire è che se fosse stata dimostrata avrebbero cercato di condurre un'operazione antiterrorismo preventiva e poi avrebbero detto sulla base delle segnalazioni ci siamo mossi, invece non sono nelle condizioni di muoversi, che vuol dire, sempre per rimanere nel gergo, che non hanno quella che chiamano actionable intelligence, ovvero sia un'intelligence così forte che ti permette di andarli a prendere, detto in parole povere. Quindi si limitano a dare un allarme preventivo. Peraltro devo dire che gli Stati Uniti si sono mossi per tempo, anche prima del 2001, ma dopo il 2001, per cui siccome sanno perfettamente che la metropolitana di New York è uno dei bersagli ideali, tra virgolette, per qualunque gruppo terroristico. E questo perché le metropolitane si sono rivelate anche realisticamente i bersagli più soft, più soffici, più colpibili, no? Beh, se vogliamo partire direi dalla metropolitana di Tokyo e l'attacco Madrid, con armi Londra, chimiche, certo, condotta dalla famosa setta Aung San Suu Kyi, però anche da prima si sapeva, certo, alcuni, certo. Per esempio ci sono alcuni paesi che questi tipi di infrastrutture le hanno messe in sicurezza già ai tempi della Guerra Fredda, perché si, certo, presupponeva che potessero essere oggetto di attacchi. All'epoca si pensava a forze speciali infiltrate. Vabbè. Poi è un po' passato in desuetudine e poi si è ritornato a scoprire la minaccia. Alcuni paesi si sono mossi in fretta per migliorare la sicurezza, in particolare gli Stati Uniti, ma anche la Gran Bretagna non scherza, il Giappone pure. Potrei parlare di Svizzera, che ha fatto parecchie cose nel settore stazioni ferroviarie, la Spagna dopo gli attentati alla stazione ferroviaria di Madrid, certo. Noi siamo un po' più indietro anche perché ci spendiamo pochino, ma abbiamo anche poche metropolitane. Vai. Un'ultima domanda, ci siamo studiati oggi un po' di quotidiani e di articoli di approfondimento riguardo a quanto sta succedendo a Mumbai in queste ore, e abbiamo colto questa profonda differenza che vorremmo sottoporre alla sua attenzione tra due autorevoli articoli, uno pubblicato dal Times di Londra e l'altro dal New York Times, entrambi dotati di eccellenti fonti di intelligence. Gli inglesi, il Times di Londra rimanda la paternità e l'organizzazione di quanto sta succedendo a Mumbai decisamente a Al-Qaeda, e fa anche cenno a una così ipotesi di strategia di richiamo di attenzione sulla propria esistenza, sulla propria condizione ancora di attività a fronte del cambio di presidenza a Washington. Il New York Times fa un articolo completamente differente e i giornalisti parlano con gli esperti di intelligence e alla fine arrivano alla conclusione che niente di quello che sta succedendo a Mumbai oggi sembra marchiato da Al-Qaeda, nello stile, nei modi, nelle tecniche, nelle tattiche non ci sono kamikaze, le strategie sono diverse e quant'altro. E poi c'è una terza ipotesi che rapidamente ci metto io, che Al-Qaeda ormai sia un gigantesco ombrellone sotto quale mezzo mondo malintenzionato, diciamo così, può trovare o non può trovare rifugio. A quale di queste teorie lei dà ascolto? Io darei, a parte che sono tutte affascinanti e dobbiamo considerare che gli inglesi in genere quando si tratta di cose indiane sono ben informati, certo. Però anche gli americani, perché ultimamente ci stanno lavorando molto proprio nel campo della sicurezza. Ecco, direi che mi credo un po' di più al New York Times, in quanto posto che Al-Qaeda, come lei ha osservato, vuol dire tutto e niente, posto che oggettivamente Al-Qaeda ha bisogno di farsi vedere e sentire ogni tanto, c'è uno studio della CIA americano che dice che Al-Qaeda è praticamente ha iniziato una parabola di declino e sarà sostituita da qualcosa di peggio e di nuovo abbastanza a medio termine, perché c'è anche una lotta interna per la supremazia, i soldi e il consenso nella galassia terroristica. Poi tenga conto che Al-Qaeda spesso si serve di strutture indipendenti alle quali vuol dare una copertura e si vuole appropriare di quello che fanno per apparire, l'ha fatto tantissime volte. La modalità operativa in questo caso è più da formazione paramilitare che direi da tipica cellula terroristica. In ogni caso, a complicare il quadro, lei consideri che in India sono operativi più di 100 gruppi terroristici diversi, un centinaio, quindi direi che dire questo o quello, è chiaro che oggi dall'India puntano di nuovo il dito sull'ISI pakistana, sui gruppi che hanno le loro basi in Pakistan, e questo in seconda battuta porterebbe ad Al-Qaeda, però ce ne sono talmente tanti altri. Va bene, grazie ad Andrea Nativi, il direttore di Reed. Intanto la situazione a Mumbai è, come dire, ancora estremamente fluida. We'll be right back. uscita un'agenzia che potrebbe segnare una svolta nella questione delle adozioni internazionali dalla Cina all'Italia. Leggiamo, si è svolta a Palazzo Chigi l'incontro bilaterale tra una delegazione della Repubblica Popolare Cinese guidata dal vice ministro per gli affari civili, la signora Zhang Li, e la commissione per le adozioni internazionali presieduta dal sottosegretario Carlo Giovanardi, al fine di approfondire lo stato di attuazione dell'accordo bilaterale nel settore delle adozioni firmate lo scorso anno. Le due delegazioni hanno riconosciuto l'andamento positivo della cooperazione e la parte cinese ha assicurato che in via del tutto eccezionale rispetto ai tempi programmati dal sistema e come segno di amicizia, fra breve sarà possibile procedere all'abbinamento delle prime 22 coppie italiane a minori cinesi. Una notizia che sicuramente muoverà molte emozioni, ma difficile da decifrare. Abbiamo chiesto il contributo all'avvocato Pompilia Rossi, già nostra ospite, esperta di diritto di famiglia. Ecco, ci spiega lo stato dell'arte di questa lunga trattativa. Questo incontro bilaterale segue un percorso che dura da anni, ma soprattutto forse il momento più importante di questo percorso non è tanto l'incontro di quest'anno quanto quello accaduto a dicembre 2007, perché finalmente, precisamente se non erro il 18, quindi a metà del dicembre dell'anno scorso, si è finalmente realizzato quell'accordo bilaterale tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Italia proprio in relazione alle adozioni internazionali, perché dopo numerose trattative, ma devo dire veramente un percorso lungo, travagliato, complesso, si è arrivati l'anno scorso, quando c'era l'onorevole Rosy Bindi, a questa firma dell'accordo bilaterale. Ora è ovvio che quindi l'accordo è molto giovane, perché si parla di dicembre 2007, quindi questo incontro che c'è stato a distanza di un anno era anche un po' per verificare, per monitorare un pochino la situazione. Io devo dire questo, che per quanto riguarda i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese ci sono stati sempre dei problemi e ahimè ci sono stati anche quest'anno, perché ci sono degli organismi internazionali che sono un po' preposti alla gestione dell'adozione di minori stranieri, e ci sono dei centri in ogni paese che devono essere accreditati nei paesi stranieri dove adottare. Cioè in Italia noi abbiamo una serie di centri, anzi sono veri e propri enti autorizzati direttamente dalla Commissione per le adozioni internazionali, che partecipano proprio al procedimento di adozione. Adesso ci sono questi enti che informano le coppie sulle procedure dei paesi in cui devono appoggiarsi nell'affrontare un percorso che sicuramente si presenta difficile, e svolgono tra l'altro questi enti tutte le pratiche necessarie per la procedura sia in Italia che nel paese straniero scelto. Tenga presente che è la coppia che deve adottare che sceglie il paese straniero. Quindi con il fatto che noi abbiamo avuto questa sottoscrizione con la Cina soltanto da un anno e che gli enti accreditati presso la Cina per poter svolgere tutte queste procedure sono, ahimè, soltanto due, per fare un esempio del paragone, quest'anno, sempre nel dicembre 2008, c'è stato l'accordo bilaterale anche con la Federazione Russa e i centri sono già cinque. Ecco, quindi in pochissimo tempo la Federazione Russa ha accreditato 5 centri. La Cina in tutto un anno, e senza parlare appunto del pregresso rispetto all'accordo bilaterale, ne ha accreditati soltanto 2. Quindi c'è un po' ancora una, diciamo, una chiusura per questioni probabilmente di mentalità e questioni di difficoltà materiale. Seconda e ultima domanda per l'avvocatessa Rossi. Insomma, detto tutto questo, quando vedremo finalmente i primi bambini cinesi adottati da una coppia italiana? Sentiamo. Da quello che mi risulta c'è già stato il cosiddetto abbinamento, cioè ci sono state delle coppie italiane che hanno fatto delle richieste, al momento c'è stato l'abbinamento, cioè è stato scelto, tra virgolette, mi dispiace usare questo termine, ma purtroppo dobbiamo usarlo, il minore da associare, da abbinare alla coppia, e al momento ci sono 22 minori cinesi abbinate altre 20, altrettante 22 coppie italiane. Ma mi scusi, per chiarirci, la coppia italiana può scegliere la nazione di provenienza del bambino, però non sceglie il bambino poi? No, non sceglie il bambino, perché c'è una lista, diciamo, ma questo in tutte le situazioni, perché è una realizzazione della convenzione dell'AIA, cioè il bambino da adottare non può essere scelto, c'è un c'è una lista, ci sono dei criteri di scelta di questi bambini e anche le cosiddette preferenze da parte dei genitori adottivi, io dico fortunatamente, non vengono prese in considerazione. Insomma, ecco, ma poi il discorso come si conclude? Cioè io scelgo la Cina mettiamo a caso mi propone un bambino cinese, poi mi io genitore propone un bambino, lì c'è tutto un percorso se... complicatissimo, è un percorso complicato perché loro devono praticamente iniziare gli incontri nel paese straniero e attenzione, quindi tutto bisogna avviene, andare in Cina nel caso, certo, tutto avviene nel paese straniero, quindi iniziano gli incontri della coppia con il bambino che devono necessariamente concludersi con un parere positivo anche da parte dell'autorità di quel paese. E cosa che non parlo della Cina adesso, in generale, cosa che non accade spesso. Poi l'ente, cioè il famoso ente a cui la coppia si è rivolta, trasmette gli atti alla Commissione per le adozioni internazionali qualora ci sia un parere positivo delle autorità del paese straniero. Dopodiché, una volta ricevuto dall'ente la documentazione, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia. Dopo un periodo di affidamento preadottivo e dopo una serie di ulteriori accertamenti che vengono fatti anche dal servizio sociale competente territorialmente, finalmente abbiamo questo decreto di adozione definitiva. Quanto infatti, può passare di tempo in guardi, tutto molto tempo, e noi discutiamo proprio di questo, perché a volte un intero percorso di adozione può durare anche 4-5 anni ed è troppo. Tutto questo chi lo paga? Ahimè, la coppia. Una questione che seguiremo, se continueremo a seguire a puntate nella sua complessa, l'avrete capito, no? Organizzazione, nel suo dispiegarsi. Nel frattempo altre notizie piuttosto preoccupanti danno il segno di un giorno di ringraziamento festeggiato in modo stravagante, diciamo così, in diverse parti del mondo. C'è un altro incidente terroristico avvenuto al di fuori della ambasciata americana a Kabul. In Afghanistan ci sono 4 morti tra le persone che stavano facendo ingresso nell'ambasciata per la festa del ringraziamento. Su Radio 24 potete seguire, continuare a seguire lo svolgersi degli eventi. Questo era Jefferson Minghi, sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Fabio Cantadori, Jefferson Minghi at radio24.it per mettersi in contatto con noi. Andiamo in replica stasera alle 9, in diretta domani attorno alle 4, come sempre qui da Radio 24.生涯戏，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。